Yo tengo una suerte loca. Qué suerte loca. Para querer. Vieni giù per queste strade in una notte puttana. Quando leggi l'illusione di una notte a Tijuana. Prendendo per il culo la passata settimana. Abusi nel consumo e la solita amata trama. La testa che ciondola da una visione da gondola. Di sto mondo che dondola su una linea svergola. Bionda come una bambola in un corpo di vetro. Le sa che mi fa gola e ne vorrò un altro mezzo litro. I sensi fa la ola fra sti cori da stato. Mi allontano dal bancone che subisce un assedio. E letto suicidio di massa camuffata festa. Per l'unica droga legale che alla gente resta. Prendo respiro prima del prossimo giro. Sospiro nel veder la prova del fuoco mo di Pachiro. E letto di chiodi su cui mi sveglierò mañana. Dolce la domenica, la nausea e l'emicrania. Je lève le coude et accuse le coup. Elle me rend des coudes mais je deviens trop fou. Pisse partout parce que bien trop saoul. Lestement dessus dessous, réalité trop floue. Son sou, je prends le large et je dénoue. Je t'avoue, plus à genoux que debout. À bout, les forces lâchées brisent tout bafou. Quelques mots et map sous soleil qui frappe. Tête qui tape, tout m'échappe. Trop inapte, je lève la patte. Tout dérape, trop de fêtes. Rien que je capte, délicate. La situation que je sape, immédiate. L'aspirine que je gope, réhydrate. En évitant l'handicap, change de cap. Et me reprends à l'eau plate. Motherfucking water, water, water, water. Every time I drink. Motherfucking water. Motherfucking water. Fucking water, water, water, water. Every time I drink. Esco dalla notte prime, luce dell'alba fuori calma. Qualcuno ancora balla, qualche sguardo si incolla. Qualche letto traballa, l'amore barcolla. Lo porti a casa in spalla e mente. Ho più teste di scilla, troppi punti di vista. La vista oscilla, è come se il mio cervello aspettasse una scintilla. Il primo sole brilla, il punto di vista vacilla. Perde di vista il senso di un sabato sera. Lo ritroverà domani nella scatola nera. Quindi mi dico che sale il sole a dare valore. Ma non saprò provarti questa illuminazione. L'illusione di potermi amputare l'ombra per imputare un altro mondo. Ogni ferita profonda io continuo a sputare vino rosso che gronda. Una testa pesante in queste acque affonda. Never dream till we pass out. We pass out drinks and make fun of the first friend that backs down. Laughed at like a class clown with his pants down. Wow, I'm feeling like a badass now. The bars when we all meet halfway crooked like Mobb Deep. These long drinks are on me, but I still gotta fight from an ain't all sweet. Cause it's like the damn stock market on Wall Street. A drunk mass loud like a dumb blast. Everyone acts like a dumbass, but this damn beer has got me all agitated. And I can't stand, I must have exaggerated. Bartender, one more can't live without. And like an unborn, he fucking kicks me out. But I don't go where my friends be. Yep, I'm following this alcohol wherever it brings me. Motherfucking water, water, water, water. Every time I drink. Motherfucking water. Motherfucking water. Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte.